Luoghi d'arte. Un cordiale saluto da Marco Carminati. Continuano nelle mie passeggiate romane e le mie passeggiate sotto gli archi di trionfo. Nelle precedenti puntate abbiamo visitato l'arco di Tito, che è il più antico, poi l'arco di Settimio Severo, che venne un secolo dopo. Adesso siamo davanti all'arco di Costantino, che risale all'inizio del IV secolo. Venne realizzato naturalmente come arco di trionfo. Gli archi di trionfo si chiamano così perché servivano agli imperatori per trionfare, per sottolineare il trionfo, cioè la vittoria in qualche battaglia. Costantino vinse una battaglia molto importante, la battaglia del Ponte Milvio contro il suo rivale Massenzio, e sappiamo che la tradizione vuole che in sogno, prima della battaglia, un angelo gli dicesse: metti sui tuoi stendardi la croce e in hoc signo vinces, in questo segno vincerai. Però se guardiamo l'arco di Costantino non c'è nessun riferimento al mondo cristiano, perché ancora in quel momento, quando viene costruito l'arco, Costantino non si è ancora convertito. Ed è significativo invece vedere che l'arco è pieno di riferimenti agli dei pagani, ai sacrifici pagani, anche perché l'arco di Costantino non è originale. Quando costruirono quest'arco, presero pezzi, diciamo così, tolti da altri edifici e da altri archi di trionfo, per cui oggi appare un collage questo arco, con dei pezzi. Per esempio, nella parte più alta ci sono delle statue che vengono da edifici che aveva fatto costruire Traiano, così come abbiamo dei tondi meravigliosi che si riferiscono ad episodi della vita dell'imperatore Adriano, e ancora abbiamo pezzi che vengono da edifici costruiti da Marco Aurelio. È come se noi avessimo rubato qua e là vari monumenti e avessimo composto il nostro grande arco di trionfo, che vi ricordo sulla cima doveva avere un'enorme statua in bronzo, ma purtroppo tutte quelle statue sugli archi di trionfo non le troveremo mai più. Il bronzo era prezioso e veniva fuso per fare pentole e spade a seconda dell'occorrenza. Thank you.